Siamo in collegamento con le compagne della consultoria autogestita perché hanno fatto, insomma, stanno portando avanti un ciclo che si chiama Cose Nostre e che a noi è piaciuto tantissimo. Cose Nostre ha attraversato tanti discorsi, magari adesso, ciao a tutte voi. E Ciao. ce lo racconterete un attimo in maniera brevissima, però il nuovo argomento che Cose Nostre sta indagando è il l'utero, è vero? Ecco, il nuovo ciclo si chiama Uteroghiamoci. Però ecco, fateci due parole al volo proprio su che cos'è Cose Nostre. Allora, Cose Nostre sono dei cicli di incontri che abbiamo iniziato a fare ormai da un bel po'. Abbiamo fatto due cicli e il nome era venuto fuori proprio in occasione della preparazione del primo ciclo che era dedicato al ciclo mestruale e diciamo ci piaceva un po' giocare appunto il chiamare il ciclo mestruale come le mie cose così, e allora avevamo scelto il nome Cose Nostre Perché infatti è per farci particolarmente indovinato, sì. sì, anche proprio per ironizzare su come parliamo sempre del ciclo mestruale così. Il primo ciclo era appunto dedicato al ciclo mestruale e poi abbiamo deciso di farne un secondo che invece era dedicato alla vagina. E poi adesso abbiamo deciso di farne uno sull'utero che poi si chiuderà anche con un appuntamento sul seno, diciamo proprio perché ci è sembrato un po' un naturale proseguimento, ecco, delle altre due tematiche analizzate. Certo. E diciamo che adesso ci siamo sentite un po' come arrivate a un po' al punto clou, nel senso che cioè, anche per gli altri due cicli, diciamo, la discussione sia per la preparazione sia poi la discussione proprio durante gli incontri, abbiamo visto che aveva toccato anche molte cose che consideriamo ancora dei tabù, anche un po' senza rendercene conto. E sull'utero diciamo che le cose si complicano ancora di più. Eh sì, è vero Infatti questo. avevamo anche chiesto di mandare un po' di materiali per diciamo, chi anche a distanza voleva partecipare, aiutarci nella preparazione. E adesso abbiamo strutturato questo ciclo, abbiamo fatto un primo incontro quasi 2 settimane fa. Il 7 di E febbraio, così ribadisco perché l'abbiamo lanciato anche noi e siamo particolarmente interessati ai risultati. Ecco. anche noi. No, nel senso che comunque, diciamo, mentre sugli altri cicli ci era venuto molto più semplice dare anche, diciamo, non so come dire, una scadenza tematica, ai vari appuntamenti, con l'utero le cose si sono complicate un attimino di più. E diciamo, quindi sia nei nostri momenti di preparazione, anche leggendo i materiali che, diciamo, gli scritti che ci sono arrivati da alcune donne compagne e l'incontro che c'è stato una decina di giorni fa, al momento abbiamo tirato fuori, diciamo, diversi aspetti che consideriamo abbastanza critici nei discorsi che facciamo sull'utero e poi come ci viviamo o non ci viviamo l'utero. Come ne parliamo e come non ne parliamo, ecco. Certo. E anche perché poi, come negli altri cicli di Cose Nostre, un po' il nostro intento è quello di non tanto fare discorsi astratti sul nostro corpo, ma anche proprio di partire dalla nostra materialità e anche e anche poi per riappropriarcene. Certo. Che è un po' il senso poi di quello che vogliamo fare con questi incontri di cose nostre. Che è quanto mai femminista il fatto di partire dal proprio corpo, è un'esperienza diretta e quindi quanto mai costruttiva rispetto poi al fare politico che una poi può mettere in atto. Esatto, e questo soprattutto, cioè, allora, sicuramente vale su tutto, però dal nostro punto di vista vale in particolare nel momento in cui comunque ci, insomma, cerchiamo di prenderci cura del nostro corpo e anche di trovare soluzioni che non siano poi le soluzioni che propone invece il sistema medico. E anche poi di riappropriarci dell'immaginario che è stato messo sul nostro corpo, non solo da un punto di vista mediatico, ma anche proprio dal punto di vista del sistema medico che ci oggettivizza molto. E poi questo è un altro aspetto che su cui abbiamo discusso, che era venuto fuori soprattutto quando parlavamo della vagina, certo. Molto la tendenza a dividerci in parti. Certo. Per cui c'è, o parli della vagina o parli di altre parti del corpo, però è molto difficile poi pensare il nostro corpo come una cosa intera. Ma ci abituano proprio a questo tipo di approccio, perché io stessa faccio fatica, cioè è un abito mentale che ci hanno cucito addosso, tant'è vero che appunto io stessa faccio fatica a considerarmi un tutt'uno. Sì, sì, no, ma perché poi alla fine da quando iniziamo ad avere esperienza del nostro corpo e facciamo esperienza così, per sì. Cui anche quando andiamo a curarci o comunque ci rivolgiamo a delle figure professionali mediche, e poi la tendenza è quella. Già il capitalismo è un'abitudine, sì. Si riflette molto poco. Dicevo, già il capitalismo ha la tendenza al di là di ogni costrutto di dominio, ma proprio a parcellizzare la conoscenza, no? Per cui qualsiasi cosa, anche dal punto di vista proprio, se una vuole fare un discorso specificatamente tecnico, il medico adesso o la medica adesso sono estremamente specializzate. Io sono arrivata a sentire delle cose che mi hanno destabilizzata, non nel nostro specifico, ma in generale, tipo un ortopedico è ortopedico della mano, un altro è del gomito, un altro è del braccio, cioè siamo Sì, sì, ma perché poi è proprio la divisione del corpo macchina che poi la medicina occidentale si porta dietro un po' da sempre. Certo. Quindi c'è anche vedere il corpo proprio come una macchina che può essere aggiustata, di cui si possono sostituire parti e che può comunque essere divisa per anche essere più produttiva, no? Certo. Da un certo punto di vista, soprattutto per il capitale. Certo. In particolare per l'utero questa cosa è ancora più vera, proprio perché viene considerato proprio uno strumento produttivo in un certo senso, viene certo. sempre nominato in relazione alla maternità, e quindi per questo poi abbiamo deciso di entrare di scendere più in profondità su questo argomento, proprio perché viene percepito sempre in relazione a qualcos'altro e mai come una parte del corpo in un certo senso, oppure scoperto quasi come dal nulla nel momento in cui ci sono delle problematiche, quindi legato anche a un immaginario negativo, legato alla malattia o positivo, ma comunque sempre votato ad una funzione ben precisa, che è quella poi della riproduzione. E quindi per questa ragione ci siamo rese conto che andavamo comunque indagato in una maniera anche differente, proprio perché i tabù attorno all'utero sono veramente più forti, più difficili da abbattere rispetto ad altre tematiche, ad esempio. E cioè, questo vostro approccio, diciamo, più problematico e l'avete riscontrato poi anche effettivamente per esempio, martedì, nel primo incontro? Ma diciamo che una tendenza, ad esempio, è quella di non riuscire quasi a visualizzarlo come una parte del corpo. E quindi ci sono in alcuni casi comunque un po' di resistenze magari a parlare di una parte come l'utero, proprio perché è quasi invisibile in un certo senso. Questo tra Certo. l'altro è legato poi anche alla schematizzazione che è stata fatta della medicina e che è comunque un punto di vista prettamente maschile, quella Come no? appunto di un vuoto da riempire. Certo. E quindi abbiamo cercato in realtà anche di modificare un pochino questa idea di vuoto come qualcosa invece di positivo, qualcosa che invece possa essere un sintomo di creatività, ma in senso positivo, appunto, non produttivista. Ecco, diciamo che a me personalmente e anche alle compagne è interessato particolarmente perché anche noi l'abbiamo, quando voi l'avete proposto questo argomento, noi ne abbiamo parlato e ci siamo rese conto che l'approccio era molto difficile ed era anche molto diversificato, no? Nel senso, io ho dei ricordi di maturazione negli anni rispetto a questa cosa interna, no? Di cui una difficilmente si accorge, prende coscienza, eccetera. E io, per esempio, l'ho sempre vissuta in maniera, cioè come se fosse un organo dispotico, chiamiamolo così, fra virgolette. Dispotico nel senso che mi ricordo da giovane che mi dava fastidio il fatto che l'utero potesse, per esempio, portare avanti una gravidanza e decidere della mia vita poi senza che io potessi fare più niente. O almeno il fatto poi di prendere coscienza che invece potevo fare e che potevo, chiamiamo così, dominarlo, è stato un passaggio importantissimo del mio percorso personale e politico. È una cosa pazzesca questa, però è così. Sì, infatti l'utero, proprio come vocabolo, in un certo senso, pensiamo che negli ultimi tempi sia stato un po' messo da parte. In Sì. realtà, questa idea appunto del dispotismo che poi viene superato attraverso l'autodeterminazione, Certo. parte in realtà poi diciamo nei racconti anche delle nostre compagne che hanno delle esperienze politiche anche legate agli anni passati, l'idea dell'utero come appunto fonte invece di questa autodeterminazione è ben presente, quindi appunto quello che dicevi è effettivamente interessante proprio in questo senso, proprio come una parte che deve essere liberata in un certo senso. Certo, o comunque con cui bisogna impostare un rapporto del tutto diverso, o comunque vorremmo Infatti impostare. anche ci ho liberata ma anche riscoperta, perché Sì. poi un'altra delle cose che è venuto fuori è che proprio come diceva anche Laura prima non siamo più abituati a pensare all'utero se non quando si presenta qualcosa come una gravidanza o come una malattia che lo chiama direttamente in causa. Un'altra cosa che era venuta fuori durante l'incontro e anche durante la preparazione, su cui ci ha fatto ragionare la nostra ginecologa Letizia, è anche il fatto che, ad esempio, cioè siamo talmente abituati a non pensare alla presenza dell'utero che anche quando andiamo a fare un'ecografia dalla ginecologa, cioè noi non ci fermiamo a guardare quello che fa la ginecologa davanti a noi, come ci tocca, come procede per fare l'ecografia, ma guardiamo immediatamente lo schermo, no? Per cui Certo. c'è anche i pochi momenti in cui comunque possiamo vedere che che cosa succede durante una visita, o capire come ci si tocca e come si può sentire questo organo, e invece concentriamo la nostra attenzione su uno schermo. Certo. Su quello che poi ci viene riportato da quello schermo, quindi anche sempre... per quanto riguarda la forma, la consistenza dell'utero, cioè sono cose che sempre fuori da noi, certo, che non siamo più abituati a sentire, certo, da questo punto di vista. E infatti anche, ad esempio, abbiamo fatto un interessante giro di domande tra di noi, ad esempio non tanto cioè non solo su appunto la questione, cioè se lo sentiamo come uno spazio vuoto, e se diamo a questa diciamo a questa accezione un valore diciamo positivo oppure negativo, ma anche cioè come ce lo immaginiamo proprio nella sua materialità, per cui cioè è debole, è forte, quanto è stesso, e se si muove, se si sposta anche durante il ciclo mestruale. Certo. E queste cose, cioè, sono appunto cose che tendenzialmente tendiamo a rimuovere totalmente. E per quanto riguarda la questione dell'utero viene chiamato in causa quando ad esempio ci può essere una patologia che lo interessa, è venuto fuori l'esempio dell'endometriosi, che diciamo inizia a essere discussa un po' come patologia, però non ancora così diciamo affrontata. E ad esempio era venuto fuori come spesso nelle narrazioni delle donne che appunto hanno l'endometriosi, cioè anche lì è molto difficile che si parli dell'utero, a meno che poi non ci siano delle operazioni che lo coinvolgono, però comunque diciamo è sempre un organo molto silenziato, anche quando magari è il diretto interessato di una situazione. E anche spesso anche quando si sentono narrazioni di maternità o caso contrario di aborto, cioè l'attenzione è sempre su cosa è contenuto nell'utero e non invece sull'utero come organo. Certo, certo, certo. Infatti il prossimo incontro è quindi martedì prossimo. È martedì prossimo, e noi inizialmente avevamo pensato di intitolarlo Uteri in Movimento, cioè in modo da iniziare ad affrontare anche la, diciamo in modo più specifico, la tematica proprio della gravidanza, comunque dell'essere incinte. E però visto che la scorsa volta appunto sono venute fuori tutte grandissime domande, sì. Molto ampi, sicuramente ripartiremo da questi per poi procedere. Bene, guarda, teneteci informate, perché è un argomento non solo, ma ci ha aperto scenari, ha aperto scenari di discussione anche a noi. Tant'è vero che stavamo meditando, adesso non mi ricordo più quando finisce il ciclo, finisce a marzo, aprile? Cioè mi pare che sia, non mi ricordo bene l'ultima data, mi pare che sia 11 aprile, ma non vorrei dire sciocchezze perché sono andata a vedermela. Ecco. Dei nostri vari cambiamenti. No, ti dico sinceramente che insomma avete aperto degli scenari estremamente interessanti, comunque molto interessante l'approccio che avete dato al tema. Cioè un approccio estremamente costruttivo proprio dal punto di vista della nostra conoscenza personale, che poi appunto diventa politica, che poi è un tutt'uno e non si può scindere. E questo ve lo diciamo perché prima di tutto vi seguiremo con attenzione, e poi perché pensate un attimo se potete essere interessate a portare questa vostra conoscenza, i risultati di questa cosa in un incontro con noi, e quindi pensateci. E sarebbe molto bello. Cominciate a pensare, se insomma è chiaro quando è finita, perché ogni volta che voi avete aperto una discussione su uno di questi argomenti di Cose Nostre, eccetera, e si è aperta una discussione anche tra noi, e questo penso sia estremamente positivo. Quindi, ecco, quindi teneteci informate, in bocca al lupo per martedì questo, e a risentirci prestissimo, grazie, grazie, e magari portate i saluti a tutte martedì da tutte quante noi, grazie, un abbraccio a tutte, ciao, ciao, ciao, ciao.